nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.29 tramonterà alle 16.23, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Cimici marmorate asiatiche cercasi, le cerca l'ERSA che invita tutti i cittadini a catturarle vive e conservarle in scatole di cartone. Serviranno la prossima primavera per allevare le vespette antagoniste da liberare sul territorio. Ne parliamo nel servizio di apertura, facendo anche il punto sulla presenza dell'insetto in regione. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che ci parla di insetti, quelli che potrebbero entrare a far parte della nostra dieta, e di carne rossa, quella che invece dovrebbe uscirne. Di rischio e assicurazioni in agricoltura si parla invece nella rubrica delle normative, seguita da quella su olio e olivi, che si occupa della rinascita della coltivazione in regione a fine Novecento. Il parco di Villa Chiozza a Cervignano e al centro dello spazio che dedichiamo ai giardini, seguito dalla settima puntata sul letame, o meglio della lunga e travagliata storia e normativa sulle concimaie. Andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Vita nei Campi continua ad aggiornarvi sulla guerra alla cimice marmorata asiatica. Ci sono delle novità, ci sono delle cose da sapere anche per il prossimo anno. Ci dice tutto Iris Bernardinelli dell'ERSA. Innanzitutto, com'è andata, come si sono distribuite le cimici in regione? Qualcuno dice che forse quest'anno ce n'erano un po' di meno. La situazione è molto variabile in regione. In alcune zone ci sono state delle diminuzioni interessanti, mentre in altre un aumento importante. Quindi complessivamente la cimice in regione è sempre presente a livelli di popolazione elevate, però per la prima volta si è osservata nelle aree di primo insediamento una diminuzione. E questo a cosa dovuto? Sospettiamo sia dovuto alla presenza di un antagonista naturale, Trisolcus mitsukuri, che pur essendo asiatico si è diffuso naturalmente in regione ed era stato trovato lo scorso anno per la prima volta in alcune località. E proprio in queste zone si è visto le diminuzioni, per cui pensiamo che sia quello il motivo della diminuzione. Parliamo di questi antagonisti, queste vespette più comunemente conosciute. A che punto è l'iter per un loro futuro possibile, auspicato lancio in natura per appunto combattere la cimice? A livello normativo le cose stanno andando avanti. A questo punto siamo a un livello in cui l'iter normativo non è ancora concluso, per cui al momento comunque non possono essere lanciate, liberate in natura, antagonisti esotici. L'iter prevede anche un'analisi del rischio che è già in corso da parte del CREA di Firenze. Il CREA cosa sta facendo? Il CREA è un centro di ricerca dell'agricoltura. Sta valutando quanto potrebbero potenzialmente essere pericolose? Stanno valutando quanto potrebbero essere impattanti sulla biodiversità e sulle altre popolazioni di insetti presenti, in particolare sulla vespa samurai, ossia Trisolcus japonicus, che non è la stessa specie che abbiamo rinvenuto in regione. Noi abbiamo trovato Trisolcus mitsukuri, ma entrambe le specie hanno comportamento analogo e analoga abilità nel contrastare la cimice. State cercando anche, come ERSA, fornitori di cimici. Perché? In primavera, se dovesse sbloccarsi appunto la normativa e permettere il lancio di questi antagonisti, serviranno un elevato numero di cimici per produrre uova su cui far sviluppare questi insetti utili. E pertanto è importante cercare di avere il maggior numero di cimici possibili in primavera, e quindi raccoglierle in autunno e in inverno. A chi chiedete di diventare fornitori di cimici? Lo chiediamo a tutti, compresi i cittadini. Per sapere come fare c'è un piccolo manuale sul sito dell'ERSA, e consiste nel raccogliere le cimici, metterle in uno scatolone con della carta appallottolata, lasciarle lì tutto l'inverno all'aperto, logicamente non sotto l'acqua, in una zona riparata sotto una tettoia o cose del genere, e aspettare poi la primavera per consegnarle all'ERSA. Mentre da un lato ci vogliono convincere che nel nostro futuro alimentare ci dovranno essere gioco forza gli insetti, dall'altra ci invitano a mangiare sempre meno carne rossa. Cosa ne pensa Enos Costantini? Non passa giorno che la stampa e gli altri media non tirino fuori quella assurdità che dovremo o dovremmo mangiare insetti. E il bello è che spesso contrabbandano questa amenità come un modo per salvare il pianeta. Io capisco che ci sarebbe meno riscaldamento globale se i friulani, per assurdo, si mettessero a mangiare le rughe delle cavolaie e i curculionidi dei pioppi, al posto del salame e delle bistecche di pezzata rossa, senza contare il vantaggio per gli ortolani e per i pioppi coltori. In realtà gli insetti e le loro mucide farine sarebbero prodotti in allevamenti industriali da ditte multinazionali. Quale sia il costo energetico di tali allevamenti e di tale cibo posto nel piatto non si sa. Sicuramente si dipenderebbe ancora una volta da qualche corporation alla quale del pianeta non potrebbe fregare di meno. Pare ci sia qualche chef pluristellato, gli chef sono sempre stellati, che già si cimenta in ricette di piatti a base di insetti che egli non mangerà mai. Il pianeta è vario e in Africa ci è capitato di vedere insetti che scaturivano dalla terra in seguito a una pioggia e che erano considerati un piatto sostanzioso. Sì, ma erano prodotti dalla terra e non da un laboratorio e comunque appartengono a un'altra cultura culinaria. Poi ci sono quelli che vorrebbero farci mangiare la carne artificiale, partendo da qualche cellula di muscolo e usando l'enzima trombina, un enzima che concorre alla coagulazione del sangue, nonché una proteina fibrinogena che interviene nella cicatrizzazione delle ferite. Il tutto messo a punto magari da una stampante 3D. Ovviamente tutto ciò non potrà essere fatto su resins di sotto, ma in asettici laboratori di super tecnologiche ditte. E anche qua ti contano la bufala che così si salva il pianeta. E ti dicono che in tal modo si utilizzano tagli, ritagli e frattaglie. L'uomo, anzi la donna, ci ha sempre messo tutta la sua inventiva per farne dei piatti accettabili financo gradevoli. I vecchi libri sono pieni di ricette e di consigli in merito. Se ora l'uomo occidentale è masse passout, li risolverà quando torneranno le vacche magre. L'appetito risveglia ogni sopita intelligenza. Io dico che di carne si ha da mangiarne poca e pochissima, ma che deve essere buona e buonissima. Gran parte del cibo che troviamo in supermarket è già artificializzato, perché si spaccano le materie prime in tante componenti che poi si assemblano con varie modalità e soprattutto con varie sostanze eleganti, che stanno al cibo come Hitler sta a Padre Pio. Una botta di pubblicità a spese del cliente e il gioco è fatto. Certo che per pensare a fare carni o uovi artificiali, gli scienziati devono avere del tempo da perdere, o dei soldi da guadagnare. E mi autorizzo a supporre che ci sia pure tanta frustrazione, rabbia e invidia nei confronti di ciò che la natura e l'ingegno umano hanno saputo fare prima di essi e senza di essi. A Udine il Ministero delle Politiche Agricole ha organizzato un workshop sulla gestione del rischio in agricoltura. Da Marco Mallison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, sentiamo cosa è emerso dall'incontro. Sì, è stato il 12° di 17 incontri programmati sull'intero territorio nazionale, nel corso dei quali il Ministero ha voluto confrontarsi con le rappresentanze agricole e gli altri portatori di interesse sulla diffusione e sull'efficacia di alcuni strumenti a disposizione degli agricoltori per fronteggiare le diverse tipologie di rischio d'impresa, da quello climatico al rischio finanziario, per esempio legato all'instabilità dei prezzi. Naturalmente i lavori si sono svolti con la partecipazione della Regione, dell'Istituto Nazionale dei Servizi per i Mercati Agricoli, l'ISMEA, dell'organismo pagatore AGEA e dell'autorità di gestione del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale. Qualche dato emerso? Beh, innanzitutto alcune conferme. Sebbene il Friuli Venezia Giulia conti appena l'1,7% della superficie agricola nazionale e l'1,9% del valore aggiunto del settore primario, siamo sempre ai primissimi posti in Italia in termini di valori assicurati con polizze agevolate o non agevolate. Buona parte del mercato assicurativo è concentrato sull'uva da vino, ma anche nel comparto ortofrutticolo e cerealicolo, mais in particolare, c'è un utilizzo importante di polizze assicurative multirischio. Questo anche grazie a decenni di preziosissimo lavoro sul territorio svolto dal Consorzio di Difesa. Ci sono però nuove tipologie di rischio. Sì, in effetti, fino a qualche anno fa, quando si parlava di rischio di impresa agricola, si intendeva esclusivamente quello derivante da eventi climatici occasionali come la grandine. Purtroppo, con il cambiamento climatico, certi fenomeni atmosferici stanno diventando sempre più frequenti e violenti. Pensiamo a eccessi di pioggia, venti impetuosi, la siccità. Ma poi ci sono anche nuove minacce legate alla diffusione di parassiti esotici come la cimice asiatica o al proliferare di specie selvatiche che provocano danni ai raccolti. E in questi casi spesso l'assicurazione non copre e se lo fa diventa troppo costosa. E quali le nuove strategie di difesa? Allora, l'obiettivo del workshop era anche quello di promuovere i fondi mutualistici che già oggi possono operare in sinergia con lo strumento assicurativo. Per esempio dal 2017 Condifesa FVG sta proponendo ai propri associati la sottoscrizione di fondi mutualistici per risarcire danni non assicurabili come quelli appunto da animali selvatici, danni da maltempo alle strutture di vigneti e frutteti, costi di risemina di cereali o soia. Ma quello che i relatori hanno voluto sottolineare nell'incontro del 7 ottobre è che nella programmazione comunitaria 2021-2027 i fondi mutualistici giocheranno un ruolo di primo piano nelle politiche di sviluppo rurale e potranno godere di incentivi fino al 70% del capitale accantonato. Per la rubrica dell'olio e dell'olivo, oggi Ennio Scarbolo ci parla della rinascita dell'olivicoltura in Friuli Venezia Giulia, anni 80 e 90. Ci fu l'iniziativa dell'ESA per dare un impulso all'olivicoltura della regione Friuli Venezia Giulia. L'allora direzione dell'ente, accanto alle iniziative per lo sviluppo del comparto zootecnico, introduzione di allevamenti caprini, ovini e relativa trasformazione di latte in azienda, introduzione dell'allevamento della bufala per produzione di mozzarella di origine locale, potenziamento delle produzioni di miele, la coltivazione di piante officinali ed impianti di produzione di funghi, ci fu anche l'iniziativa della reintroduzione della coltivazione dell'olivo in quelle zone che storicamente nei secoli passati si coltivava questa specie. Il piano si sviluppava in due direttrici: reperimento, classificazione e propagazione di tutto il materiale autoctono olivicolo presente in regione, divulgazione della coltivazione dell'olivo attraverso la costituzione di impianti sperimentali, dimostrativi e divulgativi con cultivar prontamente disponibili sul mercato Lecino, Pendolino, Maurino. La prima fase consisteva nel reperire il materiale autoctono olivicolo attraverso contatti con le popolazioni che risiedevano nelle zone dove un tempo era presente la coltura, individuazione dei ceppi originali sopravvissuti ai freddi storici del 29, 56, 85, prelievo del materiale vegetale autoctono al momento opportuno ed inviarlo ad una struttura vivaistica individuata che provvedesse alla propagazione, vivaisti di Pescia e di Verona. L'operazione durò 4-5 anni prima di avere delle piante di olivo autoctono idonee alla piantumazione in campo. Alle accessioni individuate fu dato il nome delle località del prelievo in Campania. Per esempio, Campeglio, San Rocco, Affaedi, Medeazza, Gorgalzo, Pocenigo nella zona pedemontana del Pordenonese. Oppure i nomi cui venivano chiamati dagli ultimi olivicoltori rimasti: Bianchera, Buga, Carbona nella zona di Trieste, Drobnizza, Cernizza nella zona del Collio e Tondo di Villa a Caneva. I primi impianti furono costituiti nella zona di Trescesimo e presso l'Istituto Tecnico Agrario di Cividale, tuttora esistenti e produttivi. Fu chiamato campo regionale di piante madri. Al giorno d'oggi sono presenti 22 cessioni con almeno 3 piante per tipo. Fu piantato nel 1992. Di seguito riferirò l'importanza di questa collezione, ossia la salvaguardia dall'erosione genetica delle vecchie varietà ed ecotipi presenti nel territorio. Oggi Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini ci parla del parco di Villa Chiozza a Scodovacca, in comune di Cervignano, un parco storico con una grande varietà di vegetazione di pregio e una sorpresa finale. Ennio Costantini, fantasioso come sempre, sulla rivista Tiere Furlane immaginò una conversazione in cui Louis Pasteur, il grande scienziato francese, chiedeva all'amico italiano Luigi Chiozza un assaggio di Refosco, il vino ottenuto dai suoi vigneti. I due Luigi si erano conosciuti a Parigi. Chiozza, chimico di successo, si era ritirato nella piccola Scodovacca dove applicava le sue conoscenze all'agricoltura. Pasteur, chiamato in Friuli nel 1869 a studiare la malattia dei bacchi da seta, soggiornò a Villa Vicentina e fece più volte visita all'amico che abitava nella villa poco distante. Come allora, la villa, ora sede di Promoturismo FVG, è circondata da un parco di ben 22 ettari. Il percorso principale è agevole per tutti dopo i recenti lavori di manutenzione effettuati d'intesa con la soprintendenza. Altri sono in corso. Il luogo ha il suo fascino. Si ammirano tante specie botaniche e alberi d'alto fusto. Si è mantenuta, anche se è trascorso un secolo e mezzo, l'impostazione voluta da Chiozza, con l'alternarsi di prati e boschetti, folti canneti, ampie visuali e un sentiero che costeggia la roggia. Ormai è tardi, ma fino a pochi giorni fa spiccavano le chiome coloratissime di liquidambar, ginkgo biloba e sequoie. In primavera i prati stabili hanno fioriture di viole, crocus, primule e orchidee. E i vigneti di Chiozza? Nei pressi della villa è ancora produttiva una storica vigna. L'impianto risale al 1937, a ricordo dell'interesse di Luigi Chiozza e dei suoi eredi per il vitigno coltivato con successo nella zona. Non a caso, da 5 anni a Scodovacca si tiene la festa del refosco dal peduncolo rosso e il pannello stradale all'entrata dell'abitato indica orgogliosamente che questo è il territorio del refosco. Il parco riserva una sorpresa, una colonia di cervi dove gli animali vivono protetti e osservano a distanza il passaggio dei visitatori. Nelle precedenti puntate dedicate alle tamme abbiamo utilizzato una zonazione che evidenziava l'utilizzo o meno di strame, comunque diverso, le condizioni climatiche, le varie modalità di utilizzazione, ma c'è passo di capire che le condizioni dei letamai fossero dovunque precarie. Sandro Menegò. Il letamaio montano, collinare e piano, chiaramente posto sul e a livello del terreno, non riusciva a trattenere il colaticcio che scendeva dalla massa nelle urine che sfuggivano al potere assorbente della lettiera, che si disperdevano così per il cortile e per le sue adiacenze. Nella seconda metà del 1800, nel Friuli italiano e austriaco, gli enti più volte ricordati intrapresero una campagna per diffondere la razionale costruzione dei letamai e il razionale governo della concimaia. E questo cosa comportò? Nel 1873, in territorio austriaco, la società agraria di Gorizia bandì un concorso a premi per la costruzione del letamaio razionale, da aggiudicarsi a chi, sulla scorta delle istruzioni pubblicate in versione slovena e friulana, avesse rispettato maggiormente le regole prefissate. L'opuscolo riportava i dialoghi tra il Mestri e il Fantacin. Sul bollettino dell'Associazione Agraria Friulana dal 1855 al 1916 vennero pubblicati una 50 di articoli inerenti alla conservazione, governo e spargimento dello stallatico. Questi articoli comparvero in genere in forma più concisa, affiancati da esplicite poesie, anche sull'amico del contadino, e si bandirono diversi concorsi a premi per concimaie razionali. I vantaggi della concimaia? Innanzitutto si consigliava, quando era fattibile, di ubicare la concimaia lontano dall'abitazione, vicino alla stalla, non esposta a sud e non sotto lo stellicidio dei tetti. La busa d'Aledan, posta sul terreno argiloso e pressato, o meglio su piattaforma in calcestruzzo, con cordoli laterali e pozzetti di raccolta del colaticcio delle urine, al di là degli aspetti sanitari, considerato che spesso alla concimaia era affiancato il cesso, permetteva la stratificazione regolare del letame di mano in mano che veniva asportato dalla stalla. Un razionale governo della concimaia, con compressione del letame stesso e bagnature di tanto in tanto con il colaticcio per agevolare i processi di fermentazione e decomposizione. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Ferme le contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,70 e 15,90 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 33,10 e 33,40, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,50 e 16 euro, il frumento tra 17,90 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 90 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 20 centesimi. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in rialzo. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 1,50 e 2 euro il chilo, IVA esclusa, le zucchine tra 2,20 e 3 euro. I peperoni gialli e rossi e le melanzane tonde tra 2,40, la scalora riccia tra 1,80 e 2,20, i pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80. I finocchi e cavoli tra 1,10 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 0,90, quello di Treviso precoce tra 1,1 e 30, quello tardivo tra 3,30 e 4 euro, i kiwi tra 2,2 e 30, le mele fusi tra 1,1 e 20, le pere abate tra 1,80 e 2,50, l'uva tra 2,2 e 20, le clementine italiane tra 0,80 e 1,40 e le arance tra 0,90 e 1,50. Settimana incerta nel settore della pesca per condizioni climatiche avverse. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Laguna i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 14 e 20 euro al chilo IVA esclusa, i rombi da 28 a 32, le ombrine da 8 a 25, le sogliole da 5 a 20, le canoce da 3 a 8, le seppie da 6 a 10, i laterini a 8 il chilo, i moscardini da 5 a 12, le passere da 11 a 15, le anguille da 15 a 18 e le mormore da 10 a 14. In movimento il settore dei foraggi, il fieno Mazengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,70 e 13,20. Infine, da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere, che vengono quotati tra 6 e 7 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è rimasto invariato. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Novembre verrà archiviato come uno dei mesi più piovosi, con cumulati che hanno raggiunto i 1227 mm a Tolmezzo. Nuovo record per questa località a partire dal 1961. Per trovare valori così elevati bisogna andare a Ucea, sulle Prealpi Giulie, e risalire a settembre del 1965 e poi più recentemente ai mesi di novembre del 2000 e del 2014. Oggi si avvicinerà un nuovo veloce fronte atlantico che porterà nella notte e in mattinata di domani piogge da abbondanti ad intense sulla fascia orientale, più moderate invece a ovest. Neve in montagna oltre 800 metri circa, ma con quota in calo fino a fondovalle nel Tarvisiano domani pomeriggio, quando sulla costa soffrirà bora anche forte e in serata poi avremo un calo delle temperature. Da martedì una rimonta anticiclonica dovrebbe portarci tempo stabile per gran parte della prossima settimana, con giornate soleggiate, temperature che inizialmente saranno in diminuzione con probabili gelate anche in pianura durante la notte e bora sostenuta sulla costa. Le temperature massime inizialmente saranno fra 8 e 10 gradi su pianura e costa. Già da mercoledì però in quota fluiranno masse d'aria un po' più miti e le temperature nei valori massimi torneranno a salire intorno ai 12-14 gradi, mentre nelle ore notturne ci sarà probabilmente inversione termica, specie a fondovalle. Tra giovedì e venerdì l'inversione sarà piuttosto marcata, mentre la bora sarà in calo. Nel prossimo fine settimana potrebbe avvicinarsi una depressione con peggioramento del tempo, ma è fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni, visti i possibili rapidi cambiamenti delle masse d'aria in transito. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Il mese di brume, ogni diaul si ingrume, ovvero a dicembre, il mese della bruma, si raccattano tutti i malanni. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.